Rotte sonore. Suoni dai percorsi migranti. Buon pomeriggio a tutti ancora qua con noi a Radio Città del Capo 94.7 o 96.25 in modulazione di frequenza oppure in streaming, ma siete sempre su Rotte Sonore, saranno più o meno le 14.30 e con me c'è Costanza come sempre. Ciao a tutti. E anche oggi abbiamo due ospiti che andranno a presentarsi. Ciao a tutti, come stai? Bene? Come ti chiami? Mi chiamo Mamadou Camara. Ciao Mamadou, e tu come ti chiami? Mi chiamo Bakary Coulibaly. Da dove vieni? Sono maliano. E tu? Vengo dal Mali. Ok, benvenuti qua. E di preciso quale città? La ville? La ville de Bamako. Ok. La capitale, no? Sì, di Mali. E cosa ci fate ascoltare oggi? Avete portato un po' di musica? Un po' di musica? Le son de Bonselma di Kitelaba. Ibawan, Bonselma. Ok. Ibawan, Bonselma. Ascoltiamo. Ora ascoltiamo Bonselma di Ibawan. C'est chaud, tu commences pas sentir la pression monter. On a mis ce qu'il faut. Ibawan et Mr. Blast vont te faire bouiller. Bouge seulement, seulement. Bouge seulement, seulement. Bouge seulement, seulement. Bouge seulement, seulement. Sentir la pression monter, on a mieux qu'il faut. Ibawan et Mr. Blast vont te faire bouiller. Bouge seulement. Si t'es pas prêt, même les sourds nous ont validé. Je n'ai pas le temps, je suis un homme occupé. Un homme occupé. Oui, je dis, je suis un homme occupé. Là, c'est Ibawan. Tu connais ma vie, man. J'avais des Mali, man. Tu connais la team, man. C'est Pepe. Tu connais ma vie, man. J'avais des Mali, man. Tu connais la team, man. C'est Pepe. C'est chaud. Tu commences pas sans. Tire la pression monter, on a mis ce qu'il faut. Ibawan et Mr. Blast vont te faire bouger. Bouge seulement. Sentir la pression monter, on a mis ce qu'il faut. Ibawan et Mr. Blast vont te faire bouiller. Bouge seulement, seulement. siete mai stati in una radio? Est-ce que c'est votre première fois que vous êtes dans une radio? Sì. Ok. Sì. C'è la prima volta che... La deuxième. La deuxième ou la première? Deuxième soit ou bien... Deuxième. Unisci un folo di gana. Oui. Ok, è la prima volta che sono ospiti in una radio. Mm? Sì. Ma comunque voi conoscete la radio perché a Bamako ci sono tante radio. Mm? C'est vrai? C'est vrai. Ok. E che musica trasmettono le radio di Bamako? Che genere? Che genere di musica? C'est quoi la musique que vous écoutez alla radio di Bamako? Bamako? Mm-hmm. Oui. Ibawan, Sangare, Genova Seki, Amore Mariamu. Ah, conosco. Gaspi, Atoade. Memo, Milmo, Lassana Hawa, Orokia, Orokia Kone. Salifuketa. Salifuketa. Conosco. Sì. Ma sono radio che trasmettono con speaker che parlano in Bambara o in francese? Alla radio, a Bamako. Il parla in francese o bien in Bambara? Li parla tutti in Bambara. Ok, donc. Tout. La langue officielle, c'est le français. Mais la langue popolare, c'est le Bambara. Sì. C'è una grande differenza quindi tra la lingua ufficiale dello Stato del Mali e quella invece popolare, no? E quindi in radio si parla in Bambara. Adesso cosa ci fate ascoltare? Cosa ci fa ascoltare Mamadou? Deuxième son. Chanson Genova Seki di armée di Mali. Ce son armée di police di Mali. Se center de Genova Seki, de pays de Bamako. Ora ascoltiamo Armée di Mali di Genova Seki. Anka Willy, Anka Namalo. Di cosa parla questa canzone? De quoi parle français, cette chanson? Moi, je ne comprends pas bien le français. C'est pas un problème. Tu peux me dire comme avant, ok? Oui. De quoi parle cette chanson? Armée Mali. L'armée du Mali. L'armée du Mali. Ici. Mm-hmm. À police, mm-hmm. à gendarme, Sorassi, toutes les armées. On va voir à la Tombouctou, à Guéry. Questa canzone parla del fatto che in Mali tutti sono armati, c'è una condizione molto caotica e in particolare si riferisce a quello che è successo a Timbuktu. Sì. Cioè, tutti gli eserciti convergono verso Timbuktu. Sì. Sì. Quando sei arrivato a Bologna? Quando ti arrivi a Bologna? A Bologna le 29 mois à 2016. Et tu connais parler italien. Hein? Il y a un mois que tu es et demi que tu es ici. Et déjà, tu connais un peu d'italien. Hein? Si. C'est merci à l'école. Hein? Oui, si, si. Bien, tu voilà. vas à l'école si. Italien. Tu vas à scuola d'italiano. Hein? Si. È un mese e mezzo che è arrivato qua in Italia. E già comincia a parlare e a capire bene l'italiano, perché va a scuola. Mm? Sì, sì. Va bene, allora, la terza canzone che ci fai ascoltare. Sanson Bifuru. Bifuru, Sangare, 60 di Mali. Ora ascoltiamo Bifuru di Sangare. Ali Mauyo, on a une balle pour Colima. Salut pour Geraja Boboloe, Adame Vana. Thank you. Abbiamo appena ascoltato Umu Sangare con Bifuru, non so se vi ricordate la puntata precedente con Sekou. L'abbiamo già ascoltata. Umu Sangare. D'altronde Umu Sangare è molto molto famoso, è famoso addirittura in Italia, famosa, conosciuta diciamo. Bene, adesso abbiamo il nostro Bakari che ci fa ascoltare. Amadou e Mariam. Uh-huh. Anche loro molto famosi. Beh, madame e monsieur, bonsoir. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Beh, Samson, Amadou e Mariam, et compagnon de la vie, et chanteur au Mali, et Oura Ascolta, compagnon de la vie, Amadou et Mariam. Ma chérie, ma bien-aimée, je pense à toi. finalmente una canzone che parla dell'amore per una sola donna. Vabbè, Amadou e Mariam sono sposati da una vita, sono musicisti che sono anche una coppia nella vita, oltre ad essere, penso, se non mi ricordo male, entrambi ciechi, hanno una storia molto particolare. Quindi se il fatto che siano ciechi... Non volevo dire questo, però... No, era giusto per sfatare il luogo comune, no? Che per forza... cioè, ci deve essere un matrimonio con quattro donne, ne avevamo parlato nell'altra puntata e finalmente insomma sfatiamo questo luogo comune, perché Bakary ci ha spiegato, anzi adesso glielo chiedo meglio, ça dépend de, no? De la choix de chacun, parce que ça dépend de mariage, on peut choisir une femme ou bien quatre femmes, ça dépend de la personne. Dipende dalla scelta di ogni persona, dipende da che matrimonio vuole avere. Ok. Oh, ecco, lui per esempio dice che una donna soltanto è perfetto. Basta e avanza. Vabbè, potremmo dire la stessa cosa a noi altri. Certo. Vabbè. E adesso? E adesso cosa ci fai ascoltare? Ascoltare Nahawa Dumbia e Tous les Maliens Bonsoir. Ok, c'è un chanteur? Chanteur grand, du Mali. Ok, un altro cantante maliano, Nahawa Dumbia. Yeah. Écoutez, bonsoir à tous les Maliens. En italien, ça veut dire Bonsoir à tutti Maliano. Sì, giusto. Magari imparassi il francese così rapidamente. Comunque. Dai, babbe, forse ce la puoi fare. Ce la posso fare, ma grazie anche ai nostri ospiti. Perché io da solo a stare davanti a un libro, ma noi. Invece a parlare con i nostri ospiti, qualcosina butto giù. E comunque imparo a conoscere un sacco di musica, perché Homo Sangaré e Amadou Mariam li conoscevo, ma il resto no. Comunque, siamo arrivati alla conclusione, spero vi sia piaciuto la musica, i nostri ospiti. E niente, siamo veramente con i tempi strettissimi, quindi parlerò pochissimo, solo un grande saluto a voi e a anche ringraziamo tantissimo Bakary e merci. Amadou. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir tu. A Bambara, arrivederci, tu m'hai dit? Cambe. Arrivederci, au revoir. Arrivederci. Ok, grazie. A Bambara, cambe. Così imparo anche un po' di Bambara.